Europa 24. Un saluto da Gigi Donnelli, benvenuti all'appuntamento con l'Europa. Partiamo dal tema delle remunerazioni. Niente tetto UE alle remunerazioni dei manager delle 10.000 società quotate nell'Unione Europea, ma le politiche di remunerazione devono essere sottoposte al voto vincolante degli azionisti ogni 3 anni. Ogni anno gli azionisti avranno il diritto di votare il rapporto sulle remunerazioni, in cui vengono spiegati i pacchetti, appunto, delle retribuzioni dei vertici aziendali. E questa è una delle proposte lanciate oggi dalla Commissione Europea nel quadro di nuove misure con le quali si vuole, appunto, migliorare la corporate governance. Se ne occuperanno anzi nei prossimi mesi Consiglio e naturalmente il nuovo Parlamento. E intanto, nuovo richiamo della Commissione Europea all'Italia sull'utilizzo dei fondi. Restano meno di 2 anni per spendere oltre il 50% dei fondi strutturali. Il servizio. Il problema sta tutto nei numeri. In quel 49,29% di capacità di assorbimento dei fondi europei per lo sviluppo regionale all'interno della programmazione 2007-2013, solo la metà è ben al di sotto del 66% della media comunitaria. La Commissione Europea si limita a commentare che ci sono stati progressi per la penisola, ma resta molto da fare. Il problema sta ancora lì, nella cronica capacità italiana e delle sue regioni di gestire al meglio i fondi europei, osserva Bruxelles. Mentre la Spagna, nel decennio d'oro di Aznar e Zapatero, rimodernava il paese, mentre la Polonia oggi si sta tirando a lucido con i soldi europei, l'Italia resta l'ultima della classe. È vero, il nostro meridione, grazie anche alla spinta degli ultimi governi, ha fatto passi avanti se confrontati col passato. Il programma operativo siciliano ha raddoppiato in un anno la propria capacità di spesa, passando al 40%. Lo stesso vale per la Calabria, mentre la Campania supera di poco il 30%. Resta intanto da capire che fine abbia fatto l'Agenzia per la Coesione Territoriale, quella cabina di regia unica che l'ex ministro Trigilia aveva immaginato per gestire in modo più efficiente i fondi comunitari. Al momento è rimasta lettera morta, fanno sapere dal governo. Palazzo Chigi non ha delegato alcun ministero a gestire il dossier. Il rischio è di perdere altro tempo. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Comitato delle Regioni interviene sul tema della povertà energetica, che colpisce ben 150 milioni di persone in Europa, tra cui il 20% della popolazione italiana. E questo, dice appunto il Comitato delle Regioni, deve diventare una priorità politica. In un parere elaborato da Christian Illenditz, membro del Parlamento austriaco del Bürgerland, il CDR, quindi il Comitato delle Regioni, respinge l'idea che gli investimenti nelle energie rinnovabili pregiudichino la fornitura di energia a prezzi accessibili. E ora cambiamo tema. Abbiamo spesso sentito parlare del quotidiano in classe, quotidianoinclasse.it. Forse non sapete che in questi giorni questa iniziativa, che seguiamo spesso, si sta occupando d'Europa. Ci spiega tutto Massimo Esposti, che è responsabile del progetto. Intanto, Massimo, buongiorno. Grazie Gigi. Sì, ci occupiamo di Europa e soprattutto di partecipazione dei giovani. In queste 2 settimane, a partire appunto da lunedì passato, abbiamo lanciato il primo tema, che è un po' sfidante per i ragazzi: il decalogo dei diritti e dei doveri. Ci avviciniamo alle elezioni europee, molti ragazzi voteranno per la prima volta, avendo compiuto i 18 anni. In Europa saranno 37 milioni, un po' di più, i ragazzi che per la prima volta avranno il diritto al voto, ma ci sono anche doveri per i giovani. Ecco allora questa iniziativa che noi, come Sole 24 Ore, all'interno del quotidianoinclasse.it, l'Osservatorio Giovani Editori, che è un po' il pivot di tutta l'iniziativa, e per 2 settimane insieme a MTV con l'iniziativa Partecipo Perché, vogliamo spingere proprio i ragazzi a un coinvolgimento, può essere nel volontariato, nella politica, nella scuola stessa. Ed è molto interessante perché c'è questo desiderio. Spesso si parla di ragazzi come i cittadini di domani. Noi invece riteniamo che siano già i cittadini di oggi, perché hanno delle giuste aspettative, hanno la voglia di fare, hanno la voglia di essere coinvolti. Insomma, il loro tempo è arrivato. E per ricordare, come promemoria, ritroviamo tutto online? Tutto online sul sito del Sole 24 Ore, al quotidianoinclasse.it. comunque, in genere lo mettete nel motore di ricerca e trovate immediatamente la home page. Grazie a Massimo Esposti. Con questo è tutto per l'appuntamento di Europa 24, che come sempre torna domani intorno alle 14. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.